cuore e denari. I consigli della settimana. Ed eccoci tornati insieme, è arrivato il momento di salutare Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta che ogni settimana la domenica ci porta a riflettere sulle relazioni tra noi genitori e i nostri figli prendendo spunto da fatti di cronaca. Alberto, ciao e bentornato. Ciao Nicoletta, buona domenica a tutti. Alberto, il tema su cui riflettiamo insieme in questa settimana è un temone che in realtà è sempre sotto i riflettori della cronaca e mi viene da dire purtroppo perché ha a che fare con l'uso di sostanze ad azione psicotropa da parte dei giovanissimi. È un'abitudine che è in crescita costante, sembra proprio non fermarsi. Sì, proprio nelle ultime due settimane ne hanno parlato tantissimo i giornali perché sono usciti i dati ufficiali di una ricerca che tutti gli anni cerca un po' di valutare e di misurare l'andamento dei consumi di sostanze nel mondo degli adolescenti. E i dati di quest'anno erano particolarmente critici, soprattutto se comparati ai dati delle rilevazioni precedenti, cioè quello di cui ci si è resi conto è che la diffusione tra i ragazzi di sostanze è cresciuta ancora in modo significativo. Per esempio, gli utilizzatori di cannabis sono aumentati in un anno del 15% rispetto all'anno precedente, passando da 580.000 a 500.000. E un altro dato molto preoccupante è il contatto che molti dei nostri figli hanno con le cosiddette droghe pesanti, cioè il fatto che c'è almeno un 3% di ragazzi adolescenti che ha sperimentato almeno una volta nell'ultimo anno una sostanza come la cocaina o addirittura l'eroina, e conseguentemente questo è un dato che chiaramente allarma per due motivi. Da una parte ci dice i ragazzi stanno andando alla ricerca di molta eccitazione su base chimica, ma dall'altra parte il mercato delle sostanze è sempre più vicino ai mondi dove si muovono non ragazzi che vivono ai margini, ma tutti i ragazzi, e spesso, ahimè, le scuole, per esempio, o i territori intorno alle scuole sono luoghi con cui chi spaccia sostanze ha molto accesso al mondo dei giovanissimi. Alberto, i genitori sono molto preoccupati naturalmente leggendo questi dati di questo aumento. Noi sappiamo però che spesso i genitori non hanno occhi per accorgersene. Quando si accorgono che il loro figlio fa uso di sostanze ad azione psicotropa è forse un po' tardi. Quali sono i segnali che secondo te potrebbero mettere sull'avviso i genitori? Quali sono i settori, i campi in cui occorre assolutamente presidiare, tenendo conto che parliamo di ragazzi che sono giovanissimi ma che stanno già sperimentando una certa autonomia rispetto alla famiglia, vanno a scuola da sole, hanno il loro gruppo di amici, e quindi le intrusioni dei genitori vanno fatte in modo che vengano accettate, non percepite come qualcosa a cui far fronte poi per buttare fuori dalla loro vita. Sì, credo proprio che sia importante fare quello che dici tu, cioè non sembrare solo e soltanto dei rompiscatole nella vita dei nostri figli. D'altro canto però noi non possiamo correre il rischio opposto, cioè di sembrare menefreghisti o eccessivamente distratti. Gli indicatori sono spesso indicatori molto concreti, cioè che uso fanno dei soldi i nostri figli, cosa sappiamo noi dei soldi che i nostri figli hanno in tasca e in qualche modo come si procurano quei soldi, che sono proprio tre elementi che per esempio aiuterebbero un genitore che ha un figlio che magari si è organizzato per un piccolo spaccio dentro la sua classe o dentro la sua scuola a capire che cosa sta avvenendo nella sua vita. Altro aspetto che noi dobbiamo un po' monitorare è come rientrano in casa i nostri figli dopo che per esempio hanno fatto l'uscita del sabato sera, e verificare che siano in una condizione proprio di controllo di sé, di sobrietà, è un ruolo importante, non perché noi dobbiamo stargli sul collo, ma proprio perché in molti casi, soprattutto nelle prime sperimentazioni del rischio, un intervento pronto e precoce del genitore può davvero aiutare il ragazzo a non mettersi nei pasticci. Ultimo aspetto che un genitore un po' deve monitorare è come sta andando la carriera scolastica di nostro figlio, perché queste sono proprio sostanze che hanno un impatto molto forte e significativo sull'abilità di attenzione, di concentrazione, perciò di studio, e allo stesso tempo i figli che per esempio poi entrano un po' nel mondo del benessere centrato sulla chimica si perdono davvero tanto con la testa, invece di stare su un libro viaggiano in altri territori. Quindi se la scuola ci chiama, per esempio, ci avverte che c'è qualche problema nella vita del nostro figlio, invece di avere un atteggiamento che lo tutela e che lo deve salvare a tutti i costi, magari vale la pena approfondire che cosa un insegnante vede al mattino quando entra un figlio e che cosa intuisce, per esempio, del suo comportamento in mezzo agli altri. Alberto, il dibattito pubblico si è spesso concentrato su liberalizzazione oppure su repressione. E di questo magari alcune famiglie hanno parlato con i loro figli. Secondo te, cosa capiscono i ragazzi di questo genere di dibattito e come si può portare questa riflessione a casa in modo tale che ai ragazzi arrivano dei messaggi che in qualche modo riescano a essere preventivi, protettivi, a tutelare quindi la loro salute? Guarda, questa secondo me è proprio una domanda importante per noi genitori, cioè in fin dei conti i figli di tutto questo dibattito su liberalizzare oppure sanzionare dovrebbe poi arrivare pochissimo, perché loro dovrebbero intuire che l'unica preoccupazione che abbiamo noi adulti è di salvaguardare il più possibile il loro percorso di crescita dal contatto con sostanze ad azione psicotropa. Io personalmente penso anche che per un preadolescente o un adolescente ascoltare molti dibattiti in cui parliamo di droghe leggere e di droghe pesanti sia assolutamente deleterio, cioè le droghe sono sostanze che alterano la funzionalità chimica della nostra mente e questo è particolarmente impattante sulla mente di un giovanissimo. Sempre in questa settimana abbiamo proprio letto di ragazzini che a scuola, facendosi uno spinello, hanno cominciato a stare molto male e sono stati ricoverati, e questo ci dice che c'è un principio attivo molto concentrato nelle sostanze che usano i nostri figli e che per alcuni di loro possono essere addirittura sostanze davvero davvero tanto pericolose. Quindi personalmente credo che la comunicazione che deve dare un genitore a un figlio è che le droghe sono tutte pesanti, non esistono droghe leggere, e che il percorso di crescita che noi ci aspettiamo per un preadolescente o un adolescente è che sia completamente libero da sostanze che danno alterazione chimica della nostra mente. Anche il dibattito terapeutico sull'uso terapeutico della cannabis, secondo me, dovrebbe essere molto tenuto nel settore degli specialisti, cioè fare un uso terapeutico significa usare una sostanza sotto prescrizione medica e con controllo medico, quindi fare un uso clinico della sostanza, non un uso ricreativo. Alberto, è tempo di andare ai consigli di lettura che possono aiutare sia i genitori che i ragazzi ad avere un aiuto, un punto di vista su questo problema. Sì, guarda, oggi ho proprio scelto due libri che non sono libri tecnici sulle sostanze, sì, ma che possono proprio essere letti da genitori e adolescenti, perché raccontano un mondo e raccontano anche una fatica. Uno è un libro di cui si è parlato tanto in queste settimane, molto interessante, l'ha scritto una ragazza, Andrea De Logu, si intitola La Collina, è edito da Fandango, e lei l'ha scritto insieme, si è fatta aiutare da Andrea Cedrola. Andrea De Logu è una bambina, una ex bambina cresciuta per i primi 10 anni della sua vita all'interno della comunità di San Patrignano. E quindi sì, racconta un po' la sua storia, una storia un po' particolare. Mentre per i ragazzi suggeriamo, Alberto, che siamo in chiusura? Ragazzi e genitori, il libro ha un titolo forte, Scazzi, storie di un figlio travolgente e di un padre travolto. L'hanno scritto padre e figlio, Michele Neri e Nicola Neri, un dialogo a due voci sulla fatica di diventare grande anche quando e soprattutto nell'adolescenza entra l'uso delle sostanze, edito da Mondadori. Grazie ad Alberto Pelai per essere stato con noi, appuntamento come sempre domani con Cuore Denari a partire dalle 11. Buona domenica!